8. Ascolta e controlla. 1. La giustizia è alla base di uno Stato democratico. 2. La gente spesso compra i prodotti reclamizzati in TV. 3. L'aria in molti paesi del mondo è inquinata. 4. La pace deve essere preservata perché è un bene prezioso. 5. Il grano serve per fare la farina. 6. Oggi i medici sanno curare la malaria, anche se è una malattia che fa ancora molte vittime.